il corpo abbandonato sugli scogli verde rame e tu sei vicino a me. Cerco nella luce dei tuoi occhi di capire se mi vuoi bene e che cosa mai alla fine di noi due resterà. Cristallo tra le barche capovolte, mentre il sole giallo sembra scendere nel mare. Corro sulla spiaggia più